Allora, benvenute, benvenuti a Cabaret Extra Voltaire. Nuovo progetto sulla drammaturgia femminile, figlio di Cabaret Voltaire, che è dedicato appunto a ospitare testi di drammaturghe ed è nato appunto per dare spazio al testo, visto che spesso i testi teatrali risultano un po' più difficili da leggere perché dobbiamo immaginarci che voce hanno. Avere uno spazio come un podcast dove, e una radio anche, dove la voce è protagonista, dà al testo la possibilità di farsi sentire come testo. E quindi l'idea è appunto quella di invitare drammaturghe con i loro testi che possono decidere se usare questo spazio per far conoscere il proprio testo, per sperimentarlo e poi anche averlo registrato, quindi anche magari riascoltarsi o farlo sentire. E oggi siamo qua con Eliana Rotella, Diego Piemontese, per presentare la lettura scenica di Controtempo, che appunto è vincitore del premio Carlo Annoni per la drammaturgia LGBTQ e quindi si è conquistato un posto forse nel teatro queer contemporaneo. Esatto. E che in realtà sarà una lettura parziale in vista del fatto che l'11 maggio al Teatro dei Filodrammatici faranno effettivamente la performance completa, quindi questa sera avremo un assaggio. E in più abbiamo deciso di invitare Riccardo Corcione, che è un critico, insomma, esperto di drammaturgia, con il quale poi alla fine dello spettacolo, in qualche modo della lettura, faremo un po' una discussione sul testo e un po' dagli spunti anche di tematiche che verranno fuori discuteremo un po' insieme. E giusto per darvi un contesto, questa pièce parla di due persone queer che decidono di fare coming out con i loro genitori, che sono M, che è un ragazzo trans, e F, e quindi diciamo attraverso non è assolutamente un testo, direi, vittimista o pesante, al contrario ci sono momenti anche di divertenti, diciamo spezzoni di stand-up comedy, però diciamo il testo riesce a mettere in luce forse la cosa più significativa, almeno per quello che ho letto, è un po' mettere in evidenza il contrasto che si crea tra visibilità e vulnerabilità. E quindi vedrete che anche il tipo di scrittura è particolare, quindi appunto sono un po', è uno stile anche di scrittura molto dinamico, ecco, e che cercherà di presentarvi un po' come si può definire l'identità di una persona, nel senso che controtempo significa proprio essere controtendenza, no? Essere un po' fuori tempo, però allo stesso tempo agire, quindi non essere passivi in questo senso. E quindi credo che si possa ricollegare proprio anche al fatto di mettere forse in discussione l'idea di un'identità prestabilita e invece di ricostruirsi un po' insieme. Sarà interessante, credo, vedere anche come poi in questo senso si crea anche proprio un linguaggio diverso, no? Intorno anche alla dimensione queer. Però non voglio fare spoiler, quindi direi che possiamo lasciare la parola a Diego e Eliana e far partire la lettura della pièce. Grazie. Grazie mille. Adesso farò questa operazione. Oh, vedi? Non è caduto niente. Per adesso. Ecco appunto. Silenzio. Nel buio il suono di un telefono. Non è un vecchio telefono, non fa, non so, ring ring né bip bip, che sono suoni ormai della memoria storica, sono suoni appartenenti alla parola telefono, senza comporne l'oggetto. No. Suona un telefono ed è una complessa articolazione di archi e marimba. Suona in mezzo a chi osserva la vita scorrere comodamente in poltrona. Il telefono non smette di suonare. Il suono diventa scomodo come un cappotto messo male sullo schienale. Le persone sedute in poltrona iniziano a guardarsi intorno cercando il colpevole, lo sguardo accusatorio di chi non vede l'ora di sentirsi migliore degli altri. Il telefono continua a suonare. Ormai è un manifesto insurrezionalista, ma le persone sedute non si girano più. Hanno capito che non è un problema loro, questo silenzio interrotto. Ed è proprio in quel momento che qualcuno risponde. Pronto? No, ma che disturbi, ti volevo chiamare prima, ma ero... Sì, ero in doccia, sono appena rientrata. No, quella della palestra. No, che non mi ammalo, mamma, ti ho detto che... Sì, la vicina ha una copia delle chiavi, perché? Ma cosa vuol dire che non c'è nessuno che trova il corpo? Ma no, ma non fa ridere, mamma, non metto i campanelli di emergenza. A parte che non si muore di tosse secca, e comunque, anche se vivo da sola, che poi non è vero. Sì, c'è qualcuno. Un elefante. No, mamma, un ragazzo. Mamma, abbassa la voce. Cosa dovevo fare, un annuncio in Mondovisione? No, mamma, non è un bravo ragazzo, frode il fisco. Mamma, no, stavo scherzando. Mamma, era una battuta, era... Come a cena? Per il mio compleanno. Addirittura. Ma no, ma senza che stai a preparare... Mamma, guarda, no, non disturbarti, guarda. Non c'è bisogno, mamma, veramente. Mamma è celiaco. No, mamma. Neanche la lasagna. Da voi? Va bene, glielo chiedo. Domenica alle 20? Sì. Ciao. Chi era? Nessuno. Ah, tipico nome milanese. Fai il designer? Lo stylist. Davvero, dai, chi era? Ma no, niente. Ah, è così che iniziano i tradimenti nei romanzi rosa. Romanzi rosa e sessista. È così che iniziano gli omicidi nei romanzi gialli. Io ti ho lasciato da solo troppo tempo davanti a quella libreria in autogrill, lo sapevo. Con chi mi tradisci? Con mia madre. Ah, un classico. Parlavamo della palestra. Cosa vi fate, una pizza sul tapis roulant? Anzi no, fammi indovinare, una rustichella in ciclette. Scusa? Ho sentito celiaco. Ah. Chi è celiaco? Nessuno. Sempre lo stylist, immagino. Ascolta. No, nessuno, va bene. Sei l'unico celiaco della mia vita. Bene, quindi mi vuoi avvelenare? Cioè, stavi chiedendo informazioni sulle dosi di glutine per farmi fuori? Sì, con la complicità del mio amante. Con cui ti fai le spaghettate in palestra? È uno chef personal trainer. Glutine e sudore, la mia personale idea di inferno. Era davvero mia madre. Tua madre è celiaca? No. Tu? E quindi? Ah. Ah, così? Così come? Mi presenti così? Non ho detto che come il ragazzo celiaco? Ho dovuto. Mamma, papà, lui è il mio ragazzo. Non mangerà la metà della dieta mediterranea a cui siete così sentimentalmente legati. Stai stereotipando i miei genitori? No, mi sto chiedendo perché gliel'hai detto così dal nulla. Avresti preferito un piatto di lasagne? Non intendevo questo. Cosa allora? Secondo te? Ciao, ti ricordi di me? Sono il tuo ragazzo trans, proprio così. Tra gli scaffali di quel grande supermercato che è la vita, non hai scelto un ragazzo intero, ma parzialmente scremato, come amo definirmi. C'è ancora qualcuno che beve il latte intero? Non lo so, forse per fare le torte? C'è qualcuno che ha il tempo di fare le torte? Quindi te la senti? Di fare una torta? Di dirglielo. Che non mangi le torte? Possiamo uscire da questo loop pieno di glutine? No, la domanda è se tu te la senti. Cosa c'entro io? Sei tu che fai metafore di dubbio gusto. È la tua famiglia, non la mia. Sei un uomo. Questo a loro basta. Magnifico. Lo sanno che non arrivo agli scaffali alti? No, intendo dire. Ho capito. Allora, secondo me ti fai troppi problemi. Noi arriviamo, ci sediamo e glielo diciamo. Oppure arriviamo, io non so fare i parcheggi AS e lo scoprono così, senza neanche bisogno di parlare. Ma non abbiamo la macchina. La noleggiamo. Non hai la patente. Va bene, parliamo. Una bella tavola rotonda. Cosa pensi di dire? Ma vorrei partire prima di tutto un attimo dal contesto. Contesto. La casa dove sei cresciuta e da cui te ne sei andata 10 anni fa sbattendo la porta. Oh, non ti sfugge niente. No, intendevo, non so, una piccola premessa. Non so, teorica. Diciamo che non hanno proprio le idee chiare sull'argomento. Vorrei quindi cercare di restituire la complessità della cosa in un'ottica transfemminista intersezionale. La complessità. Ma sì, cercare di far capire, non so, che la ripetizione nel tempo degli atti e dei gesti corporei delle cosiddette categorie sessuali costituisce un costrutto culturale, nel senso che il genere, il sesso, la sessualità sono performativi e persino il desiderio non è una scelta, ma una conseguenza delle norme che fanno parte di quella disciplina societaria di cui tra l'altro parlava anche Foucault. Insomma, cercare di spiegare che il genere, il binarismo in quanto tali, sono soltanto un costrutto sociale deciso da una cultura patriarcale millenaria. E tu sei sicura che glielo diciamo così? No. Io mi fermerei un filo prima. Ma è la Butler. Appunto. Ma sono le basi. Ecco, cercherei qualcosa di più concreto. Tipo? Tipo, ti ricordi quando tu e papà siete... È andata così. Ti ricordi quando tu e papà siete venuti a vivere qui da giù? Che sono passati 40 anni, ma voi ancora vi sentite di giù? Perché non importa quanto tempo abbiate passato in una città che non sentite come vostra. Voi siete nati così. A parte che i miei genitori si sentono un po' di qui, o comunque si sentono un po' di qui e un po' di giù. E sarà in quel momento che noi gli spiegheremo il non binarismo di genere. Con il regionalismo. E poi, come gran finale, se ancora non hanno capito, aggiungiamo che c'è un programma con Sabrina Ferilli che parla per 8 puntate con persone trans di disforia di genere. Non guardarmi così. Lo trovi su Rai Play? Tu sei sicuro? Ha fatto un film con Sorrentino. No, sei sicuro di dirglielo? Buonasera, buonasera. Un pubblico dal calore travolgente, dai. Fatemi un piccolo applauso che non l'avete fatto prima neanche a loro. Forza, forza, da, su, su. Lo senti, lo senti? Che calore travolgente questo pubblico. Exalge, io sono qui per fare una premessa. Un prologo, direbbe qualcuno, prima di dirci che ha fatto il liceo classico e che ora nel suo studio di avvocato tiene dei piccoli motti scritti in latino, di solito fascisti, eh già. La mia premessa è, tenetevi forte perché sennò non capite niente, non di tutto il resto dello spettacolo, di tutto. La mia premessa è, poi tornate a casa, no? Tornate a casa e dite, signora, cosa dice? C'era questo ragazzo che sembrava, non lo so, il figlio segreto di Flavio Briatore e Laura Boldrini che faceva tutte battute, boh. No, la mia premessa è, io sono un ragazzo trans. E questo è il calore con cui speravo fosse accolta questa informazione. Eccoci qua. Lo so. La maggior parte delle persone là fuori non sa neanche che esistano gli uomini trans. Invece no, esistiamo, siamo tra di voi, ci vestiamo come voi. Io in particolare mi vesto come voi se voi foste uno skater quarantenne quest'oggi. Ok? No, siamo così. Viaggiamo indisturbati all'interno della società senza, no, che nessuno ci possa distinguere. Siamo come i liberali. Io poi se continuo a vestirmi con le sneakers bianche sembro proprio un liberale. Eccoci qua. No, allora, io adesso ci rido, ci scherzo, ma non è sempre stato così, no? Io ho dovuto convivere per i primi 10 anni della mia vita con un dolore lancinante. Mi prendeva prima la pancia, poi tutto il resto del corpo, fino a quando non ho scoperto che era il glutine. Sì. Tremendo, eh? Vivere in Italia e essere celiaci. Come vivere negli Stati Uniti ed essere contro le armi, no? Ti basta, non so, sbagliare corsia al supermercato e subito ti ritrovi faccia a faccia davanti al tuo incubo peggiore. Nel mio caso, il cucciolone. Gelato biscotto, base della mia comicità. Che buono, che è niente, invece niente cucciolone, perché è un gelato con più glutine che anima quel gelato, sì. Comunque adesso no, adesso hanno anche riso loro, quindi io sono a mio agio, vi ho anche raccontato il vero motivo per cui sono discriminato in Italia. Sì, tra l'altro la prima cosa che la mia fidanzata si è premurata di dire su di me a sua madre, tralasciando tutta un'altra serie di caratteristiche, tipo che so fare benissimo il letto, che mi piace andare molto in quel famoso negozio di arredamento svedese, anche di sabato. Sì, stiamo scivolando piano piano in un pezzo in cui io a un certo punto dirò: la mia fidanzata non trova mai niente nella sua borsa, ma quante cose hanno nella borsa le donne, cosa che io invece non criticherei mai, perché la sua scarsa attitudine alla ricerca le ha permesso di trovare me. Non che fosse difficile da nascondere, eh? 1,70 m di sarcasmo incartato in un bel pacchetto trans gluten free, no? Poi all'epoca avevo anche la peculiarità della mia comicità, no? L'Eldorado su cui ho fondato la maggior parte delle battute che sentirete qui questa sera, che è un nome da femmina. Proprio così, ma un vero nome da femmina, no? Di quelli che non hanno neanche la versione maschile, no? Di quelli dove non ti puoi immaginare, ah, qui hanno scritto male, ci andava una O. Niente. L'esperienza più bella, visto che ora è rimasto solo sui miei documenti, quando al momento del verbale l'appuntato, confuso, guarda il tuo nome sul verbale, poi ti guarda in faccia e si sente imbarazzato da se stesso, perché crede di aver chiamato al maschile fino a quel momento quella che lui pensa essere una ragazza brutta. E se c'è qualcosa a cui le forze dell'ordine sono meno preparate alla transessualità, beh, quella è la bruttezza. Sì. Come faccio a saperlo? Allora, diventano improvvisamente accomodanti, dicono delle cose tipo: signorina, deve essere stato perché aveva il cappello. Oppure: no, guardi, anche proprio femminile, cara. Ora, io non sono proprio femminile. Prima di prendere ormoni ero esattamente così, ma con la voce di Mischeta, ok? Adoro. Quindi non sono mai stato proprio femminile, cara. Sapete come mi chiamava la mia maestra delle scuole elementari? Una ragazza sportiva. Okay. Vi potete immaginare, questo è il contesto, ok? Però io non voglio rinnegare questa cosa di avere questi documenti con un nome da femmina, anche perché questo mi permette di testare ogni giorno nel nostro paese la prevenzione al furto di identità, ok? La cosa più difficile per ora? Andare in posta e convincerli che quella multa che devo ritirare per pagare è proprio la mia. Ok, quella la cosa più difficile. Per non parlare di quel periodo, beh, c'è stato un grande periodo, è stato il periodo in cui il nostro governo si è riunito, non so se ve lo ricordate, con un gruppo di tecnici, scienziati, e tutti si credevano: ma a chi dobbiamo affidare questa cosa della gestione della gente che non si vuole vaccinare? E una voce dal fondo della sala ha detto: perché non i baristi? E così io nei 3 mesi successivi, ogni volta che volevo un caffè al bar, dovevo assistere a questa scena. Il barista che, confuso, guardava il nome sul Green Pass, poi guardava me, poi di nuovo il nome sul Green Pass, e aveva negli occhi la luce di chi si vede già seduto da Barbara D'Urso a raccontare di come ha sventato un traffico internazionale di Green Pass rubati, al che io lo guardavo e gli dicevo: secondo lei, se proprio dovevo comprare un Green Pass falso, lo compravo con un nome da femmina? Questo nella mia testa, dalla mia bocca usciva qualcosa tipo: ottimo caffè, complimenti. Buono. Il caffè. Buono, dico. Come l'hai fatto? Sono andata in Brasile. Ho raccolto tutti i chicchi, poi li ho tostati, li ho conservati nel mio piccolo bagaglio a mano mentre volavo con una compagnia low cost, poi sono arrivata in Italia, li ho portati a una torrefazione che li ha macinati e riposti nelle comode capsule che uso tutte le mattine per fare questo buonissimo caffè. Vogliamo parlarne? Del caffè? No, di come dirglielo. Sono le 7 di mattina. Il momento più produttivo della giornata. Ma pensavo che avessimo deciso di affidarci alla santa protettrice della televisione italiana. Intendo cosa gli diciamo davvero. In che senso? Nel caso l'operazione Sabrina Ferilli non vada in porto. Ma hai anche valutato questa eventualità? Quale? Che tu non sappia per una volta cosa dire degli sconosciuti. Ed è qui che ti sbagli. Ho elaborato una serie di ottime idee, partendo dal primo macro tema: consigli per la casa. Signora, non si deve preoccupare, con me sua figlia non dovrà mai stirare. Cosa stai facendo? Stiro. Tu lo sai che se fai così si vede che non hai mai stirato in tutta la tua vita, vero? Beh, perché non stai visualizzando bene. Le camicie negli angoli si fa così. Sembra che tu stia tagliando un salame. Comunque, se stendi bene, non devi stirare. Ah, questa è la tua fase per conquistarli. Ne ho pensate altre. Deliziami. Mamma, papà, avete presente quella cosa della celiachia? Forse vorrete rivalutarla alla luce di... No, direi di no. Ha ragione, effettivamente nel nostro sistema valoriale il glutine è secondo solo al pranzo della domenica. Possiamo uscire un attimo dall'immaginario gastronomico? Mamma, papà, avete presente i post di Facebook in cui voi e i vostri coetanei scrivete «Non ci sono più gli uomini di una volta?» Beh, non sono mai stati così veri. Mia madre comunica solo con le storie WhatsApp. Peccato, peccato, perché questa era carina, anche un po' polemica, satirica. Continuo? Continua. Mamma, papà, lui è il mio ragazzo. Se a volte lo chiamate e non si gira è perché ha cambiato nome da poco. Cosa sei, un cane? No, però ho una ciotola nella credenza da cui posso mangiare solo io. Magari questo non glielo diciamo. Perché no? Signore, signore, io sono una persona molto abitudinaria, ma ho cambiato nome per affermare il mio genere. E certo, io non posso dire transfemminismo intersezionale e tu dici affermazione di genere. Questa è quella definitiva, giuro. Mamma, papà, devo dirvi una cosa. Sì, riguarda il mio ragazzo. Ma così sembra che tu abbia precedenti penali. Vabbè, ma io li ho. Ma perché ti hanno beccato ad attaccare i manifesti per la pace nel mondo? Intanto mi stavano arrestando. I vigili, amore mio, ti stavano arrestando, i vigili. Devi sempre rovinare tutto. Ma tutto cosa? Ho una credibilità da mantenere. Io sono un uomo che è stato forgiato dalle sue esperienze difficili, dal fuoco di mille battaglie. Amore mio, ma tu devi usare un sapone specifico per pelli sensibili, che sennò mi diventi la pimpa. Diciamo che ti hanno forgiato con un pH della pelle un po' delicato. Va bene, va bene. Percorriamo la tua strada Barbie magia delle feste. Vai, vai lì e gli dici: mamma, papà, lui è il mio ragazzo ed è una persona veramente speciale. Cosa siamo, amici del cuore? Amici di penna? Vuoi invitarmi, non so, a casa tua per un pigiama party? Vogliamo essere più espliciti? Vai lì e gli dici: mamma, papà, sapete cosa si dice sugli uomini bassi? Ma sei impazzito? Stavo scherzando. Non fa ridere. A loro magari sì. No, a me no. Ma io non capisco perché dobbiamo abbassarci ogni volta a qualcosa che non ci appartiene. Sono 15 anni che cerco di spiegare il fatto che esisto a persone che non sono lì per ascoltarmi, ma per convincermi che non è così. Mi sembra veramente tutto così inutile, come insegnare l'alfabeto quando vorresti leggere Joyce. E io sarei Joyce. La stessa mancanza di punteggiatura. Guarda che io le so mettere le virgole, senti? Sono stato zitto per quanto? 2 secondi pieni? La domanda è per dire cosa, poi? Ma non è che c'è sempre bisogno di dire qualcosa. Non è che qualsiasi cosa faccia sottende un significato segreto che tu devi trovare. Lo sai, la Jessica Fletcher dei sentimenti? Ogni tanto dico delle cose che non hanno un perché, per ridere, non lo so, per dire qualcosa, senza che questo abbia un retroscena di sentimenti accartocciati che tu devi appianare. Non lo so per dire cosa, non lo so. Doveva far ridere? Non ha fatto ridere, non importa. Non mi guardare così, io non ho voglia di ripercorrere la storia della mia infanzia, di fare la saga dei sentimenti rotti perché ho sbagliato a fare una battuta. Basta dire non faceva ridere. No, no, non mi basta dire non faceva ridere. Sono stanca ogni volta di dimenticare tutti gli anni passati a smontarmi, tutto il tempo impiegato a rivoluzionare il mio linguaggio per poi sorridere in silenzio con il reflusso. Le mie parole sono una delle poche cose che mi rimane, una delle poche cose davvero mie, che non ha ricatti economici intrinseci, qualcosa per cui posso avere le forze anche di lottare nella stanchezza della mia precarietà, capisci? Guarda che non ce l'avevo con te. Non c'è bisogno di dirglielo. Non ho detto questo. No, lo dico io infatti. Ma dicevo solo che sono stanca ogni volta di fare... Tu sei stanca? Davvero? È strano il silenzio, no? Esistono tutte le cose e nessuna. E basta pochissimo per capire tutto, tipo questo. Non è lo stesso di questo. Che poi accade qualcosa anche quando non succede niente. Un silenzio stampa, un silenzio di tomba, il silenzio in ascensore, il silenzio in ascensore col vicino antipatico, il silenzio in ascensore col vicino attraente. Quando si è da soli di notte e non si riesce a dormire e ogni rumore esplode. Il silenzio in treno di mattina che è quasi dovuto come fossimo in chiesa. E sì, anche il silenzio in chiesa che è bello perché quando esci la vita sembra più accesa. C'è questo silenzio. E questo silenzio, che è un silenzio mancato, che sto riempiendo di un suono dopo l'altro, ancora che per quanto io possa colmare, rimane sempre un vuoto, perché sotto traccia non c'è niente da dire. Il silenzio di quando non è vero che non c'è più niente da dire. Quello di quando non stai dicendo davvero quello che vuoi dire. Quello è un silenzio interno, sotterraneo. La tua bocca parla, mastica, incameri informazioni più o meno sensate e rispondi agli stimoli. Passi il sale, guidi, dici qualcosa di divertente per evitare domande come cos'hai, cosa c'è. Il silenzio dopo la domanda cosa c'è. Cosa c'è? Parlami. Sei diversa. Non ti vedo. Ne parliamo? Non hai niente da dire. L'omissione come arma di sopravvivenza. Esco. Non esco con una persona che mi fa piangere al telefono, che mi spaventa per quanto si sta infilando dentro di me, che se dovesse andarsene ho paura crollerebbe tutto, come quando togli un pezzo a un castello di carte o un mattone a un muro. Esco e non so quando torno. Non ho voglia di tornare, ho voglia di confondermi e mischiare le cose finché mi dimentico quale casa sia di chi. Esco e non posso dirvi questa tonnellata di amore che mi compone, perché voi non la vedreste, vedreste solo la vergogna di una colpa da mettere a tacere. Che bisogno c'è di dirlo? Non voglio saperlo. Quel silenzio che ti spacca il cranio e ti spacca per intero in due, quella che fa e quella che dice, il corpo che vive e viene punito, nascosto e seppellito in mezzo a buchi bianchi di realtà parallele, bugie, altre te che ti si snodano davanti finché diventano tutte vere. Tutto è vero per sopravvivere al silenzio. Io non mi riconosco più. Non ti riconosco più. È difficile da spiegare questo silenzio di macerie. Non ti ho mai proibito niente. Cosa passa nel silenzio dopo questa frase? Io lo sento lo stesso. Sento tutto quello che non dite, lo vedo. Dalla vostra piega del gomito, da come vi schiarite la gola, mi si schianta addosso il vostro sguardo. È il ricatto nello spiegare l'invisibile. Diventa colpa tua. Non ti ho detto niente, non ti ho impedito niente. È colpa tua che senti questo silenzio schiacciarti le ossa. Questo silenzio dopo che metti giù e ti chiedono chi era? Nessuno. Era... Grazie, complimenti. Eccoci qua! Ma allora, forse farei un giro giusto per presentarvi al pubblico un po' a turno. Potete decidere da chi partire, raccontare un po' chi siete, come siete arrivati. Io siedo all'estrema destra del padre, quindi devo cominciare io. In realtà avevamo concordato delle presentazioni alternative. Ma perché dire alternative? Sono quelle reali. Adesso facciamo le reali, così poi dopo le altre. Ah, vabbè. Dici che non ci conoscono abbastanza per cogliere le gag. Va bene, no, io sono Diego Piemontese. Nella vita faccio principalmente lo stand-up comedian. E poi ho studiato anche cose di teatro e nel mio percorso ho incontrato sia Eliana che poi Riccardo. Forse questo non lo dovrei dire, perché poi tu ci fai le domande, invece sembra che siamo tutti amici. Non è così. Riccardo è stato mio insegnante. Ride, ma è vero, non è che... Grazie, mi fa sempre sentire vecchio. È tutto vero. E quindi io e Eliana ci siamo conosciuti appunto in uno di questi momenti in cui studiavamo il teatro ormai 10 anni fa. E poi lei è diventata una drammaturga di successo. Io ho detto, perché non aggrapparsi al carro dei vincitori? Scriviamo un testo insieme, Eliana Rotella. E niente, quindi questo è il motivo per cui siamo qui. Io sono tutte le parti di stand-up comedy e tutte le parti che fanno ridere in generale di questo testo. Non volevo dirlo io, volevo che fossi tu a dirlo, però eccoci qua. Sì, io e Diego in realtà vogliamo scrivere insieme da tipo 10 anni probabilmente, e abbiamo... Esatto, sì. E però questa era la prima volta che ci trovavamo un po' veramente con una concretezza di un testo da scrivere insieme. E io sono drammaturga, in questo caso mi avete sentito leggere, leggeremo anche appunto ai filodrammatici, e però principalmente sono dramaturg ed è per questo che ho incontrato anche io Riccardo. Ah, quindi la nostra presentazione è tutti raccontano come hanno conosciuto Riccardo. Va bene, va bene. Anche dal pubblico, esatto. E quindi appunto ci siamo conosciuti proprio perché dramaturg colleghi, però principalmente dramaturg. Dai, dillo che hai vinto la Biennale di Venezia. Vabbè, Diego, cioè, ha vinto la Biennale di Venezia, lo dico grazie. Io, così non c'è questo bisogno. E questo direi, siamo appunto stati invitati. Volete dire cos'è un dramaturg? Perché sì, perché molte persone non lo sanno, pensano che sia un errore di ortografia, quindi aggiungono la O, infatti all'inizio... Riccardo era stato presentato sull'evento di Exalge come drammaturgo. Beh. Però era sulla drammaturgia femminile, quindi c'era qualcosa che non quadrava. Io me la caverei con una cosa molto eterea, cioè il dramaturg è, non so, un polipo della drammaturgia. Così. No, diciamo che il dramaturg è, non è uno scrittore al tavolino, per farla proprio banalissima, ma è una specie di curatore, architetto di processi che hanno a che fare con una idea più larga di drammaturgia, ovvero i contenuti, la struttura di uno spettacolo, di una performance, tant'è che il dramaturg spesso è applicato alla danza, ad altri contesti dove non c'è il testo. Un curatore di contenuti, che sembra tanto un content creator, ma non c'entra niente. Però io adesso sono in veste di... mi viene da dire interrogatore, visto che mi hai chiamato prof, adesso mi devo vendicare. E, si sono presentati malissimo, in realtà. Io ci tengo comunque a ricordare le fake presentation. Certo, certo. E cioè, appunto, Diego è qua perché è stato eletto... Non lui, no, qualcun altro è stato eletto Papa e quindi è riuscito a lasciare il conclave ed essere qua con noi. Cose di ieri sera. E visto che appunto fra i compiti di un presentatore ci deve essere la domanda d'attualità, ce la siamo già tolta sul tema. Invece Liana, eri la perpetua? La perpetua. Di chi però? Attenzione. Di me stessa. No, hai detto della vescova. Ah, della vescova di Oslo, scusami, hai ragione. Entriamo della subito di Oslo. Nelle tematiche... Una vescova lesbica di Oslo. Quindi, però diciamo... tanto se è vescova. Giusto. Vabbè, forse sono interessati anche al testo e non a come ci conosciamo. Sì, sì. No, vabbè, allora... Diciamo delle cose. Aspetta, dicevo che si sono presentati malissimo perché in realtà appunto Diego è una stand-upper molto, molto in gamba. L'ho conosciuto, ma questo è di poco interesse perché in realtà appunto ha lavorato... a parte che potete trovare tanti suoi contenuti online e Comedy Central... E anche ha lavorato al Piccolo, insomma ha fatto tante cose molto, molto belle, quindi vi invito a curiosare sul web. E Eliana, appunto, dillo che hai vinto appunto la Biennale Autori, ma in realtà è da molti anni che porta avanti diciamo un percorso che ha a che fare con la drammaturgia, anche nel senso di cui si diceva prima, quindi in un senso veramente ampio, che tocca la danza, che tocca collaborazioni, installazioni e che per arrivare subito al testo e smettere di parlare, così parto subito con una domanda, la drammaturgia di Eliana ha, dal mio punto di vista, ha molto a che fare col corpo e anche in questo testo l'abbiamo sentito, c'è... diciamo un interrogarsi sui confini che ci sono fra la parola e il corpo, come la parola oggi riesce a comunicare qualcosa che ha a che fare invece con diciamo sensazioni, emozioni o dimensioni corporee. E secondo me, ecco, già questa dialettica che abbiamo visto di una coppia chiama in causa dei temi che sono anche rappresentativi di entrambe le loro, mi è da dire giovani, ma non mi va di dire giovani, carriere, vecchie, anziane carriere. Quindi ecco, la domanda è per Eliana, magari cominciamo da Eliana, quanto c'è di tuo in questo testo e se ci parli un po' di questa tematica corpo-parola. Sì. Grazie all'eminenza qua presente. E allora, di questo testo è stato veramente molto bello in realtà scriverlo insieme, perché un po' per, così te lo dico anche live, no, un po' per la conoscenza pregressa, un po' perché ci sono dei momenti di stand-up in cui ci piaceva proprio che anche il corpo proprio del performer sfondasse un po' quello che è la quarta parete, o anche semplicemente a leggio adesso, a lettura, ci fosse un rapporto più diretto. E quindi tutta la parte di stand-up e anche la comicità intrinseca dei dialoghi, assolutamente farina del sacco di Diego. La domanda era però che no, cosa c'è, esatto, di più? Cioè non è che è possiamo andare per sottrazione, non... tutto no. Il resto l'ho messo io. E poi ci sono appunto dei monologhi in cui invece il personaggio di F si interroga un po' su il tema, anche a proposito di corpo e parola, del silenzio, cioè di come molto spesso ci sono una serie di, mi viene da dire, ma neanche caratteristiche, proprio di attraversamenti della persona che esistono nel corpo, e che spesso la traduzione di questi attraversamenti, di queste esperienze, di queste caratteristiche viene proprio disseminata su un terreno molto fragile, che è il terreno della comunicazione, del linguaggio. Spiegare alle persone chi si è, soprattutto in questo momento, soprattutto con un linguaggio in movimento, fallace, fallimentare, diventa molto, come dire, diventa una sfida in controtempo, appunto. Quindi il personaggio di F è molto sfaccettato, perché da una parte fa parte proprio di quella generazione, quindi mi identifico io stessa, che lotta con le parole, e nello stesso tempo, di fronte a tutta questa immensità di parole, riuscire poi veramente a trovare quel terreno comune in cui due esseri umani riescono a capirsi, soprattutto come riflessioni sugli strumenti culturali che si possono o non possono avere, su discorsi, complessità, insomma, quello diventa già un'altra cosa. E quindi spesso lei si ritrova in questi momenti afasici, proprio di non so che dire, cioè non riesco a comunicare con in questo caso due persone di un'altra generazione. Per fortuna c'è M che riesce effettivamente poi a un po' ad agire, ecco. Se diciamo che in questo testo, se la parola è F, il corpo è M, per quel che mi riguarda. L'ho capito adesso, pensa te. Grazie Riccardo Carcione. Sono i miracoli. lo sappiamo. Lei viene da Roma, la città. E, no, è che appunto questa cosa qua che stavi dicendo mi sembra una bellissima immagine per parlare di una drammaturga, cioè di una persona che si interroga sulle parole che usa. Quindi la domanda era anche un po' questa, cioè quanto di questa ragazza che si interroga su che parole usare per dire ai suoi genitori c'è di una drammaturga con la sua storia, con la sua storia sia personale ma anche appunto di autrice, che ha vinto il Biennale. Vogliamo ridirlo. E non solo. E Carlo Annoni, che lo dico io questo. Vabbè, però quello insieme. Vabbè, cioè, premio anche 50-50. È più farina del tuo sacco. Però ecco, quanto di questa ragazza che si interroga su, come dire, i suoi genitori, che poi sono domande in cui ci ritroviamo tantissimo, no? C'è della drammaturga. Quindi se hai sentito, mentre lo scrivevi, Anche che dietro queste domande così anche divertenti, così ironiche, c'erano delle domande più profonde sulla scrittura. E la stessa cosa, così vado subito con la domanda, poi mi taccio a Diego, la stessa cosa, quando hai detto il corpo è di Diego, chiedo a Diego, nel senso che veramente sembra che appunto il personaggio di F sia veramente impedita nel fare le cose, e poi in realtà M porta questo linguaggio appunto da stand-up, che proprio come linguaggio, quindi tematizzo proprio la forma del linguaggio, è veramente molto più diretto, e nonostante poi abbia delle scatole cinesi, sì, si esce poi a un certo punto. Però ecco, quanto vi sentite coinvolti anche nei vostri ruoli di scrittrice e autore performer in questo testo? Per me tantissimo, perché è l'annosa questione di quanto c'è di della complessità della cosa, quanto, cioè i compromessi per parlare, perché spesso non si può parlare di certe cose con tutta una serie di discorsi che, ma banalmente ci vorrebbero, cioè, ma non ho neanche io quasi gli strumenti per parlarne, cioè l'identità di genere è qualcosa di molto complesso, quindi anche a livello politico è sempre veramente, soprattutto quando si fanno gli spettacoli, quando si scrive, è sempre l'annosa questione di quanto vogliamo che sia fruibile. Quindi da persone che non sono né nell'ambiente teatrale, primo, lo sai, perché molto, purtroppo l'ambiente teatrale si parla molto addosso, e quanto non sia neanche fruibile da persone che sono dentro una bolla, che è un po' la bolla delle persone queer, appunto, dove magari un discorso sull'identità di genere tu lo mastichi per anni e continui a masticarlo, ancora adesso non finisci mai di decostruirti, però il problema è che c'è tutto un mondo che ha un altro vocabolario fuori, quindi è sempre in bilico, non c'è una risposta, ovviamente, perché non è in controtempo, appunto, perché è un inseguire perenne. È un compromesso continuo, è una linea veramente sottile, non c'è la risposta definitiva. Però sicuramente mi ritrovo molto nel personaggio di F, che non vuole da una parte semplificare troppo, perché nella semplificazione spesso poi si rischia di cadere in delle trappole molto grandi. Ma nello stesso tempo, appunto, forse Judith Butler, buona pace della Butler, però forse non è esattamente il modo migliore per dire a tua mamma: guarda, amo una persona e questa persona si chiama M in questo caso ed è fatta così. Quindi sì, no, io tuttora è sempre: sei troppo radicale, poco radicale, troppo mainstream, poco mainstream, cioè è comunque sempre un andare, non andare bene da qualunque parte ti giri, quindi a un certo punto dici va bene, me la metto via e basta. Non so tu come te sì, la vivi. Quando abbiamo deciso di scrivere questo testo, abbiamo deciso di scriverlo proprio con l'idea di fare un testo che potesse parlare non solo alle persone della bolla teatrale o della bolla LGBTQ+, o a entrambe le bolle sovrapposte insieme. E quindi in questo l'espediente del fatto che il personaggio di M, che ha, per riprendere la domanda, un ampissimo spunto autobiografico, evidentemente, anche perché mi sono divertito a disseminare dei pezzi miei di stand-up comedy, non sono pezzi miei integrali che faccio, però qualcosa della stand-up comedy vera che faccio poi nei miei spettacoli nei locali c'è anche nei monologhi di M, proprio perché volevo aprire questa possibilità del fatto che appunto M poi avesse anche qualcosa di me. E è stato un grande pretesto per spegnere, pompierare questi grandi slanci poetici che invece aveva il personaggio di F, che sono appunto abbiamo questa cosa. Poi in tutto il resto del testo si rincorrono anche sempre pezzi di stand-up comedy e invece pezzi di drammaturgia, che se voi aveste letto altri testi della dottoressa Rotella riconoscereste come suoi propri... Sì, come suoi propri, nel senso che appunto, come diceva Riccardo, c'è un fil rouge tra questi monologhi, questo sul silenzio che avete sentito e tutta una serie di testi che ha scritto Eliana. E quindi sì, lo spunto autobiografico è forte, infatti anche la scrittura è stata molto divertente, soprattutto perché in realtà spesso ci trovavamo a non gestire quello che doveva essere il nostro personaggio, ma l'altra persona diceva: guarda che forse M risponde così, no, però forse F. Allora qui attacca una pippa della Butler in cui dice che è tutto così. E quindi, come vedete, anche Eliana ha parlato molto più di me, dicendo le parole difficilissime, un sacco difficilissime. E però poi è bello anche perché secondo me, mentre la scrittura della stand-up comedy colpisce diretta, la scrittura invece di questi monologhi di Eliana è stratificata e comunque qualcosa poi ti parla a qualsiasi livello, e quindi qualcosa poi risuona, succede così. Grazie. E avete risposto a parte tante delle domande che volevo farvi, quindi vado un po' più sul proprio tecnicamente, praticamente, come è stato lavorare in due, e non ho capito bene se tutte le parti di M sono scritte da te e tutte le, cioè anche le risposte, no? Cioè, come avete gestito i due personaggi? Perché poi, vabbè, tu hai detto, lei magari mi diceva M, rispondeva così, cos'ha. Sì, diciamo che vabbè, i monologhi sono stati scritti, i monologhi di M sono miei e i monologhi di F li ha scritti Eliana, mentre invece per le parti di dialogo tendenzialmente veniva impostata la scena, capivamo da dove partivamo e dove volevamo arrivare, e poi sì, spesso succedeva che articolavamo delle discussioni e le tenevamo. Sì, anche proprio in presenza, in presenza proprio con i due PC. E a metà fra questa specie di dissociazione un po' strana tra il parlato e lo scritto, e quindi sono in parte conversazioni, possiamo dire quasi. Sì, sì. In parte conversazioni trascritte, in parte aggiustate, poi sì. in parte c'è questa cosa di lavorare su Drive, no? Da due posti diversi, vedi? Riccardo annuisce. E questa cosa. No, beh, anche noi. E anche noi anche tu, grazie Diego. Anche noi, io ho 27 anni, ragazzi, cioè non è che, e io 31, che... No, e quindi la cosa del M avrebbe risposto così è perché effettivamente poi dovevamo un po' minimamente polarizzare anche questi due personaggi, perché chiaramente era utile che sì. M avesse una linea, F ne avesse un'altra, e sì, quindi sì. Magari anche perché se no dopo tre battute finiva la scena, nel senso che magari ci trovavamo d'accordo e fine, invece ovviamente c'è bisogno di... A me stupiva molto come il personaggio, cioè il diretto interessato, alla fine era quello che ci teneva, cioè quanto lei ci tiene a definirsi come coppia, e sono importanti per lei le parole. Poi pensavo anche a quello che diceva Riccardo, che tu sei drammaturga e la parola crea, la parola agisce, no? E quanto invece lui agisce in un altro modo, però non gli interessa troppo la definizione, cioè, o comunque quindi però mi creava stupore quasi dire: ma perché lei ci tiene così tanto e lui sdrammatizza, no? Perché forse è l'unico modo che ha di, non prendendosi sul serio, di viversi meglio quello che sta, non lo so, sì, cioè mi sì. chiedevo... Sì, nasce da questo, nasce dal fatto anche di scrivere un testo in cui una persona trans sia rappresentata non in una maniera poetico-vittimista, ma anche come uno stronzo. Esatto. perché molto spesso appunto poi le poche storie di transizione che ci sono nei nostri media, nei film, così, poi in teatro relativamente poco, parlano, a parte che parlano appunto di persone che magari capiscono in quel momento, invece M ha già delle certezze, vive già la sua vita, c'ha la sua fidanzata, le sue cose, e quindi non sta questionando niente. E in più, sì, non, anche è una persona anche molto sbadata da tutta una serie di punti di vista. Più avanti nel testo c'è un momento in cui lui, ad esempio, usa il maschile universale per definire gli amici di F, e lei dice le mie amiche e i miei amici, perché non tutte le persone queer fanno parte e sentono tutte le battaglie così tanto. E quindi dare una rappresentazione di una persona che non è così imbevuta nella lotta, in tutte le altre questioni, è dare una rappresentazione più veritiera, secondo me, anche della realtà. E più inedita. E più inedita. Però così questo qua mi porta anche a dire, alla fine, attraverso anche sdrammatizzando, comunque facendo ironia, quanto arrivi di più a un pubblico, perché a volte l'ipervittimismo sì, è pesante, cioè, ed è brutto da dire, perché in realtà è vero che c'è dentro un dramma, certo, però come fa a comprenderlo un'altra persona? E poi rischi di essere iperprotetto e quindi in realtà non entri, cioè almeno sì, per quello che un po' mi ricollega anche un po' a Simona Semenic, che lei è epilettica e parla dell'epilessia senza, cioè comunque è un argomento tabù, è difficile da spiegare, ma ci fa ironia sopra, però non è renderlo superficiale, è un'altra cosa, perché comunque dietro c'è la persona. Sì, c'è un vissuto che appunto poi a un certo punto esce del testo, esce tutto insieme, quindi poi le battute di M si fanno sempre più caustiche, diciamo, all'interno dei suoi pezzi di stand up lungo il testo, fino a che arriva a un punto di un ritorno in cui dice basta e racconta anche lui di tutte le volte in cui si è negato per integrarsi nella società. Anche perché a livello... No, scusate, avevo visto una mano alzata, ma no, era solo un sistemarsi di capelli. Niente. Perché tu, se ci fosse stata una mano alzata, avresti interrotto così. Sì. Va bene. Se c'era una mano alzata, certo che sì. No, secondo me è anche una questione un attimo di storiografia, nel senso che appunto nel momento in cui c'è già stata tanto una rappresentazione di un certo tipo, non si può non fare i conti. E non significa negare nessun tipo di dolore, né negare le rappresentazioni esistenti. Semplicemente si tratta di riflettere collettivamente su quali opzioni si vuole dare a un immaginario collettivo. Come si può o si vuole dare un'alternativa nel pensare a una determinata categoria, in questo caso di persone, anche perché... spesso se non si ha poi a che fare con delle persone che incarnano l'essere queer vis-à-vis, allora dici certo, è tridimensionale, è una persona, si hanno le storie. E le storie sono molto importanti nel momento in cui sono varie, in cui sono complesse, in cui sono stratificate e riescono un pochino di più a dare quell'idea appunto di essere umano complesso che non è solo... sempre pronto a lottare per tutte le battaglie, a parte che appunto si può essere trans senza essere queer, si può essere gay senza essere queer, ma questo è un argomento molto ampio, molto ampio, che forse questo Judith Butler sera, va bene, è imitato, vedete, abbiamo scritto così il così, testo così, praticamente così. Cioè, esatto. Quindi lo spunto autobiografico sì, è ampio. Ma poi penso anche rispetto a un discorso che facevamo anche con la Simona Semenic, che comunque sia un modo di accogliere il pubblico in un modo più diretto, no? Cioè penso che questo tipo di dialogo faccia sì che le persone che ascoltano effettivamente possano immedesimarsi di più, anche se magari non hanno vissuto sulla loro pelle quelle esperienze, quindi penso che sia comunque ormai un linguaggio che sta prendendo piede proprio perché è un po' una nuova forma teatrale che effettivamente ha un appeal, no? Cioè riesce molto di più a coinvolgere il pubblico e a renderlo secondo me, anche partecipe, cioè non più solo spettatore esterno. Comunque ho una domanda esterna. mi riaggancio al titolo e sono curiosa di sapere che cosa rappresenta il tempo nella dimensione queer, nel contesto queer. Prego, io... No. Dovete sapere, questo titolo me l'ha proposto Eliana, poi io ho detto sì. Però era in una grande rosa di titoli, quindi... Tra cui... No. Cosa rappresenta il tempo? Tempo nella dimensione queer. Sì, nel contesto queer, se comunque diciamo è un titolo particolare, e quando io l'ho letto ho anche faticato all'inizio a capire cosa volesse veramente dirmi, e quindi mi chiedo se ci sia effettivamente un significato particolare che date all'idea di tempo. Vado. Allora, questa è una risposta personale, però, quindi esco dalla... Anche perché non sei la comunità queer, Eliana. Te lo svelo qui questa sera. Grazie, meno male che c'è inedita, il dottore. Inedita questa risposta, quindi è personale. Meno male. Meno male. Con tutto il resto delle cose che abbiamo detto questa sera. Ah, sì. Ed è per questo che il nostro testo non è obbligatorio nella scuola dell'obbligo. Come? Se no Riccardo Corcione. No, Riccardo Corcione adesso lo introdurrà come obbligatorio, esatto. Ovunque lui insegni, questo sì. Però non è I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, e quindi... Anche se, posso dire. Sulla via. No, cos'è il tempo? Quindi la risposta personale è che... è una questione, almeno personalmente, molto relativa rispetto a quando decidi, scegli, ti accorgi, non lo so, ti capita, chi lo sa, però c'è uno spostamento della tua vita a un certo punto. Almeno per me è stato che a un certo punto c'è stato uno spostamento, e da questo spostamento in poi, come persona queer, ho dovuto far fronte a una serie di cose, anche forse recuperarle, alcune cose che improvvisamente le mie età, ad esempio, si sono molto frammentate, perché alcune cose dell'adolescenza si sono spostate più avanti. Questo è l'inizio del testo, esattamente così. Cioè alcune cose che magari vengono vissute nell'adolescenza sono state vissute più avanti o perpetrate. Cos'è l'età adulta, quando è arrivata? Ma questo è successo, almeno appunto nella mia esperienza, perché improvvisamente mi sono trovata in un percorso che dovevo tracciare io, che per cui le narrazioni a cui ero stata abituata tutta la vita non funzionavano più. Non avevo nessun tipo di, o poche narrazioni che mi consentivano di dire ah ok, più o meno, allora un percorso da seguire è quello. E quindi è stato un percorso che ho costruito insieme alle persone che ho incontrato, di base con cui continuo a costruire. E quindi il tempo della vita cambia, il tempo della vita è assolutamente diverso. Ed è un tempo, in questo mi viene da dire, forse collettivo, nel senso vero del capire come riconoscersi, quando fare o non fare determinate cose. Quindi per me il tempo è qualcosa che io ho costruito pian piano. E... avrei dato una risposta molto simile. No, nel senso che... questa è una risposta personale. No, come persona trans, come succede a molte persone in realtà della comunità LGBT, tu non fai parte magari fin da subito di una minoranza, ma a un certo punto della vita ti rendi conto di far parte di una minoranza, e quindi lì già c'è una bella cesura temporale, nel senso che io avrei potuto essere davvero una ricca e felice ragazza bianca e invece ho deciso di accollarmi questa cosa. E poi, in quanto uomo trans, c'è stato un nuovo ribaltamento, perché nel momento in cui io ho intrapreso questa transizione, ho iniziato a prendere ormoni e sono diventato totalmente compatibile con tutti gli altri uomini bianchi, è stato invece un altro ribaltamento del mio ruolo di potere, Nel senso che ovviamente tu parti come minoranza, però poi agli occhi della società acquisisci tutta una serie di privilegi che prima non avevi. E quindi sì, il tempo, ci sono davvero delle stagioni differenti della vita in questo senso. Ma il tempo è un tema che mi attanaglia molto, ci penso molto. Era un omaggio al Papa Agostiniano, al Papa, certo. Al nostro Leone XIV. Beh, ma posso fare anche brevemente, banalmente, per me il tempo è anche... Adesso volessi dire una cosa sul Papa. Ti faccio. E adesso Sant'Agostino, via. No, però ad esempio per me un altro tema è il tempo della maternità, per esempio. Cioè il tempo della genitorialità è... Chi c'è? Che c'è nel testo. Sì, ah, che c'è nel testo, diciamo che c'è la maternità. Nella seconda parte. Cioè, ad esempio, per me il tempo ipotetico genitoriale è assolutamente, come dire, spostato da tutta una serie di prerogative che spesso sono anche fuori, da esterne, dalla mia intima volontà, sì o no. Che poi c'è tutta una riflessione su sé, ma anche volendo ci sono prerogative economiche, prerogative legislative, prerogative di tutta una serie di altre cose che inevitabilmente non si spostano a livello temporale in un range che dipende da tante cose. No, quindi... Secondo me cambia anche per il genere, cioè penso che forse il tempo sia anche una questione... Sì. Anche forte per una donna più che per un uomo, per anche in questo senso, appunto, a un certo punto la maternità ha una scadenza, un tempo. No, scusami. No, no, è così. Sì. Quindi, siamo no, però, d'accordo. Appunto, in questo caso, tra l'altro, in coppie che in coppie queer è una moltiplicazione di calcoli. Che sono anche la scelta con la ropa, con l'IVF, quindi che dipende, quindi non è solo, cioè è a maggior ragione un altro proprio intrecciarsi di età e di stagioni diverse, quindi sì, scusa, volevo... No, certo, mancherebbe. Martina. No, niente. Domande più facili adesso. Io ne ho. Volevo invitare il pubblico, se certo, se qualcuno ha delle domande, vengo col microfono a darvelo. Dai, vi abbiamo chiamati in causa adesso. Anche banalmente, come va avanti il test? Sì, ci sono dei colpi di scena, cose che non avete capito, che non vi sono piaciute. No, vabbè, dai, che vabbè, non mi okay, sono okay. No, dai. Io ero pronta, cioè, perché così. Tu sei così, no, io dai. Il testo di M ed F, purtroppo, allora, questo è tutta colpa di Eliana, nel senso che Eliana scrive un teatro che si chiama Teatro Post-Drammatico, che è un teatro in cui i personaggi non esistono, una cosa di cui io non mi farò mai una ragione, e quindi i personaggi non possono avere dei nomi normali. Ora, io ho consentito a questa cosa pensando che noi non avremmo mai, cioè che questo testo sarebbe andato in scena e basta, e quindi loro non si chiamano mai nel testo, perché anche noi nella vita reale non ci chiamiamo mai, e quindi pensavo che nessuno avrebbe saputo che lei ha scelto questi nomi, quindi non M ed F in realtà si essendo molto binari, molto schifosamente binari. Beh, ma è anche una presa in giro. È anche binarismo. È anche una presa in giro del binarismo, scopro questa sera. Ma come? E quindi... È una presa in giro del binarismo, nel senso che appunto sulla carta d'identità loro questa... hanno scritto esatto. M ed F. M ed F, e quindi ci piaceva giocare un po' sul fatto che però non hanno davvero dei nomi, perché sì, questo è il teatro post-drammatico, eccoci qua. Quindi non lo sapremo mai qual è il vero nome di M. Però un'ottima domanda, vedi? Sì. Ci ha fatto scoprire qualcosa. Davvero non avevi capito? Vabbè, ok. Io pensavo, io ho superato questa cosa, e per me era una delle cose che ti potevo lasciare vincere, perché che ci sarebbero state battaglie più complicate da combattere per questo testo. E allora ho detto, si chiamano così, e ho detto, eccoci qua. Però sì, MDF. Beh, allora io ho un'altra domanda. Ne ho due. Allora, una è... tu stavi giustamente dicendo come è stato questo cambio del senso di privilegio, no? Sì. Da questo cambiamento, e quindi un po' ero curiosa di capire come... come tutto quello che puoi immaginarti. La gente non ti dà più... Mentre stai parcheggiando, nessuno si avvicina per darti le indicazioni. Vuoi sapere questa cosa? È pazzesco. Nei negozi le persone ti parlano, i commessi, come se tu non fossi deficiente. È una cosa che ti dicono, no? Incredibile. Wow. Ma anche il tuo meccanico, no? No, il mio meccanico no. Il mio meccanico no. Continua a cercare di vendermi delle spazzole per i tergicristalli. Io ho solo il cinquantino, quindi non so cosa. Il mio meccanico continua a cercare di fregarmi. Questo sì. Però no, poi con tutto il resto del mondo sì. C'è tutta questa cosa, sì, di uomini, di complicità degli uomini, che mi mette anche abbastanza a disagio, perché spesso prevede battute che comprendono cose che io non voglio immaginare. Tipo chiaro. I genitali di questi uomini che io non conosco, che vengono lì, però c'è il tuo benzinaio che ti fa: oh, le pompe migliori sono altre, e tu sei lì e dici: perché io stavo facendo benzina e adesso mi devo immaginare te che fai sesso ora? No! E però niente, c'è questa cosa qui, sì, di complicità maschile, che però ha molti altri vantaggi. No, la cosa delle battute è complicità, no, quella è complicità, però sì, cioè, che ha molti altri vantaggi, che, come diceva giustamente la dottoressa Rotella, noi chiamiamo privilegi, noi nel nostro mondo woke. Allora passo alla mia seconda domanda, e nel senso che nel testo è chiaro come sia diciamo fondamentale il fatto di voler trovare un modo di parlare della propria identità e quindi di essere visti, ascoltati e sentiti per anche diciamo, immagino appunto, anche tutta la fatica e il dolore che c'è stato, no? E quindi mi chiedo, allo stesso tempo, quindi si gioca anche molto, anche nella stand-up comedy, sul discorso del giudizio, no? Di come gestire questo giudizio, come trovare un modo per appunto raccontare questa cosa senza essere stereotipati. E quindi mi chiedo che prezzo ha la visibilità. Cioè, visto, tornando al discorso iniziale sul confronto che dicevo tra vulnerabilità e visibilità. Ma in realtà, allora, io ho il mio primo spettacolo, è quasi tutto su questa tematica, ed è quello da cui sono stati estratti dei pezzi che poi ci sono in questo testo, è quello il cui estratto è andato su Comedy Central e quindi ha avuto una visibilità molto maggiore, ma poi è uno spettacolo che ho portato dappertutto, nei locali, alle sagre, nei paesini del... e devo dire la risposta è molto, molto più positiva di quanto io mi aspettassi. Cioè, anche sotto i video di Comedy Central, dove mi aspettavo veramente la rabbia peggiore, perché c'è un'altra comica che invece è una donna trans, che invece prende degli insulti favolosi. Invece è solo la rabbia nei confronti delle donne che è così tanta, che è perché la gente, innanzitutto con questo fatto che appunto sembro uno skater quarantenne e quindi sono molto affine anche a come la gente pensa che siano gli uomini, no? E quello fa. Un po' anche perché se tu sei uomo hai vinto alla lotteria del gender, e quindi anche quello un po' fa. E un po' perché appunto io mi pongo in quest'ottica molto simpatica, è molto messa a suo agio da questo mio aspetto. Cioè, io non penso che tutte le persone che sono capitate anche a vedere i miei spettacoli, perché io non è che ho una notorietà per cui vengono milioni di fan, cioè c'è una prima fila magari di persone che sono lì per quello, però poi vai alla sagra del paese della Bergamasca, dove tutto il resto delle persone evidentemente è lì per la polenta e non per te. Eppure, però, poi il responso è positivo, cioè la gente è contenta. Penso che creda, se tutti i trans fossero come te. Però comunque questa è una piccola battaglia che mi sento di combattere sagra per sagra, paese per paese. E quindi no, da quel punto di vista sì. Ma perché penso sia una questione molto più di genere. Cioè che la nostra società ce l'abbia un botto con le donne cis e trans. E quindi ho fatto la scelta giusta ogni giorno, me lo ripeto. Non ho niente da aggiungere. Allora, forse sì, faccio una domanda a tutti, Marti compresa. Diciamo, come vedete il teatro queer contemporaneo oggi? Cioè, come... se vogliamo fare un discorso un po' critico in questo senso. Vabbè, visto, facciamo il giro così, non lo so. No, facciamo inizia il giro. Marti, vai, inizia Marti. Dai, sbilanciati tu. No, non ero pronto, era che non volevo far sbilanciare lei per prima su questa cosa. No, ma si sbilancia Riccardo. Esatto, l'abbiamo invitato apposta. Esatto. Cosa pensi? Cosa hai visto? Teatro queer. Negli ultimi anni? Io lo guardo con gli occhi, anzitutto. E... non lo so, non so rispondere a questa domanda perché faccio fatica a pensare a un teatro queer. Cioè, proprio come una specie di etichetta e no, non vado a vedere uno spettacolo di teatro queer perché penso che sia un teatro queer, per quanto possa essere una questione da discutere. C'è da dire che appunto cioè, io per esempio ho un problema quando vado a vedere gli spettacoli che li sento... come dire, le platee io le sento come forse i luoghi meno adatti a fare politica, le platee italiane di oggi, non le platee in generale, le platee di oggi italiane sono appunto è pieno di gente che si parla addosso e quindi è anche una questione complicata, però sicuramente per esempio ci sono molti festival che fanno un lavoro anche sui pubblici e lì quindi in alcuni ambienti pensati, ragionati, senza che diano spazio a questa cosa con l'etichetta per venderla solo perché ha l'etichetta, ma con un ragionamento che magari mettono dentro i programmi o insomma, o magari accanto agli spettacoli ci sono, non magari non la Judith Butler, però degli incontri, si aprono appunto delle assemblee e altre questioni, lo guardo volentieri, non lo so. Sì, però sì, diciamo, mi sembra più giusto quel contesto lì, piuttosto che un contesto che mi viene da dire sfrutta un po' l'etichetta per sì, cioè, andare mi chiedo dietro quanto la moda. Sia utile appunto metterlo come un'etichetta o come dici tu, di fatto è teatro. Però c'è anche da dire che invece è importante sottolinearlo perché ha un valore. No, io non dico che non per esempio che non va detto che il festival oggi è dedicato a una tematica legata, perché poi se mettiamo solo queer o femminismo è veramente troppo vago, no? Però magari si possono intercettare anche delle immagini, no? Corpi banalmente. Però ecco, a volte in realtà, mentre mi fai la domanda, per raggiungere certi pubblici è anche forse necessario, diciamo, cavalcare delle... giocare al gioco. Stare al gioco, che poi è un po', per ritornare sempre al testo, secondo me è un po' la questione su cui gioca la stand-up di Diego. Cioè, lui arriva e dice, sono trans... E quindi voi adesso vi aspettate che io vi racconti tutta la mia storia, perché? Perché la comicità gioca proprio sulla disattesa di un'aspettativa legata a questo genere di situazioni. Ah, ok, siamo tutti compagni a vedere lo spettacolo queer. E invece no, vi parlo di celiachia. E lì c'è il gioco comico. Quindi ho risposto con il complimento a Diego. No, niente. Vabbè, mi prendo io questa... No, anche perché sennò facciamo che rispondiamo prima io e Riccardo, sembra proprio che abbiamo detto, gli uomini, bellissimo, le cose, poi bam, diventa previa richiamo. Un podcast di uomini bianchi, sarebbe incredibile. No, allora, il teatro queer contemporaneo, e quale? Cioè, nel senso, ci sono tanti teatri queer. Ci sono tanti teatri queer... come dicevamo prima, anche lì Queer per me, ad esempio, è una parola che ha connotato un valore che è cambiato tanto nel tempo, che in questo momento, ad esempio, per me non ha a che fare strettamente solo con l'identità di genere o l'orientamento sessuale. Quindi a volte una persona fa cioè ha un'identità o un orientamento sessuale, ma non è, in questo caso gay o qualsiasi altra cosa, ma non è una persona queer, perché per me essere queer in questo caso, odio questa parola perché la stanno utilizzando veramente a manetta, però quando si parla di postura rispetto alla società, per me è questa, posizionamento, una posizione in questo senso sulla domanda ad esempio della visibilità. Per me queer è visibile, cioè, ma nel senso che è proprio la decisione anche di in qualche modo prendersi uno spazio, aprire dei dibattiti, dei discorsi, dei dialoghi, comunque essere presenti, ed essere presenti con, in questo caso, un determinato discorso politico. Non è detto che tutte le persone lo facciano, ci sono spettacoli che non so se definirei queer. E per me in questo momento storico, almeno personalmente, ci sono anche lì tante fazioni. Chi dice, ah, ma le etichette rovinano, in questo caso la divulgazione è problematica. Sono stata a un talk in cui questa persona diceva, la divulgazione è problematica, perché la divulgazione semplifica dei concetti che di per sé hanno una complessità tale che invece potrebbero essere estremamente più potenti nel momento in cui uno si prende il tempo per attraversarli insieme di persona. Quindi ci vuole molto più tempo, ad esempio. Questa persona diceva, la divulgazione accorcia i tempi di comprensione, ma diciamo svuota poi l'esperienza di quel concetto stesso. Quindi anche lì, teatro di divulgazione, teatro queer, è molto complessa la faccenda, non è una cosa a cui mi sento di poter rispondere così. Anche lì, persone che invece dicono, no, io sono radicale, il mio teatro queer è un teatro queer perché è radicale, e non me ne frega niente, io non voglio educare nessuno, io l'unico, il mio interesse è portare avanti fino in fondo, e tutto è lecito. E invece c'è chi di... Quindi per me la risposta a come sta qual è il teatro queer in Italia, che ci sono tanti teatri queer, ma penso sia anche giusto così, cioè nel senso che poi le cose vive si moltiplicano, quindi è giusto anche che c'è chi si sente rappresentato dalla definizione, c'è chi vada contro la definizione, anche quella è una molteplicità per me da accettare, che, con cui dialogare sempre, e che è giusto esista nel momento in cui si fa parte di, non la chiamiamo comunità perché anche la parola comunità è stata bannata ultimamente, quindi non so più che parole usare, appunto. Cos'è il teatro queer per te, Diego? Ma anche io sono d'accordo che ci siano diversi teatri queer, soprattutto anche diverse stagioni di teatri queer, nel senso che c'è il teatro queer del mese di giugno, che è un mese nel quale voi, se ve lo steste chiedendo, io ho tutti i giorni della mia vita occupati, io fatturo nel mese di giugno quasi come in tutto il resto dell'anno, perché le persone nel mese di giugno si svegliano e decidono che loro vogliono il teatro queer, e poi c'è il teatro queer di tutti gli altri mesi dell'anno, che evidentemente è molto meno, con delle piccole ricadute per degli eventi, esatto. No, io vabbè, sposo quello che ha detto Eliana, sono un po' più radicale rispetto ad alcune cose, io sono totalmente contrario a chi dice che la divulgazione è sbagliata, perché secondo me dire no alla divulgazione è un discorso classista, ed è quindi una cosa che non condivido proprio in nessuna maniera, e anche questa sera l'abbiamo detto, finalmente qualcuno ha detto che qualcosa è classista. No, perché cioè, se articoli un discorso per cui secondo te è meglio che vedere un'ora di spettacolo leggerti 20 libri di Judith Butler, vuol dire che devi uscire da casa tua e andare a toccare l'erba, perché non, cioè non stai parlando della realtà. E quindi io sono contrario alle persone che dicono io lo faccio per me, perché allora se lo fai per me puoi farlo a casa tua e non fai pagare la gente un biglietto. E beh, questo non, io, Eliana è stata molto gentile, io sono un po' meno gentile di Eliana. E no, perché poi non si può mettere per me sullo stesso piano tu che ti stracci le vesti per mezz'ora con la musica elettronica sotto e no, dici che è la... Ma perché non stai facendo attivamente niente né per la tua comunità, che scopro oggi una parola bannata, e né, boh, non lo so, cioè... C'è tanta gente che riempie i corsi di acqua gym che fa la tua stessa cosa e non si fa dare 15,50 € di biglietto, ecco. Basta. Io mezz'ora, perché penso a delle performance di quelle... Però tonifica. Quantomeno se tu lo fai, almeno acqua gym, la puoi fare anche tu e esci tonificato. Questa cosa dell'acqua gym... E qui... No, io no, io... Voi dramaturg della danza, ma io sono contrario. No, non è vero. C'è un sacco di gente che fa dei lavori sul corpo che sono fantastici, che ti restano dentro e tutto il resto. I lavori di Eliana Rotella potete andarli a vedere tutti. Io sono... Potete. Avete la benedizione. Non è come andare ai corsi di acqua gym. Però sì, io sono proprio molto stufo. E questo testo, secondo me, è anche molto figlio di questa cosa. Del fatto che a un certo punto io mi sono guardato dentro e ho detto dove stiamo andando come comunità. E se da una parte ci sono degli spettacoli che hanno dentro dei personaggi che di solito sono uomini omosessuali e si fregiano di questo titolo di spettacoli LGBTQ, dove ci sono fondamentalmente delle macchiette, dall'altra parte ci sono delle cose totalmente incomprensibili a me, che ho, cioè, sono laureato in storia del teatro tedesco, voglio vedere, cioè, per chi li stai facendo, per no. E quindi niente, quindi guarda, io lascio la parola a Martina, spero io in un po' di fiducia nella sua risposta, perché sono stato caustico. Non ho, cioè, per me anche per me è difficile definire queer in generale e mi trovo un po' cioè la domanda era... No, non mi ricordo più. Cosa ne pensi del teatro? Okay. Sì, ma dal tuo punto di vista come attrice, traduttrice, parte drammaturga, quindi diciamo anche forse un po' un discorso più in generale su... Visto che vorrei... Facciamo un applauso alla Marti, perché tutto questo... Grazie alla Marti. Ci hai tenuto, no, a fare questo cabaret extra, a dedicare questo spazio alla drammaturgia femminile, a fare... credo che sia una forma di lotta in qualche modo, no? Cioè, anche questo sì. Podcast, e quindi un po' un tuo giudizio sul teatro, su... È come dire cosa... Anche queer, se vuoi dire. No, è come dire... cioè, ci sono spettacoli... Cioè, è come dire cosa ne pensi del teatro, cioè ci sono degli spettacoli che dove vedo teatro, degli spettacoli dove che non mi piacciono, quindi a volte non mi arrivano e soffro questa l'etichettamento, perché mi sembra un po' un modo per attrarre pubblico, però poi è talmente complesso che è difficile che mi comunichi qualcosa. E altre volte trovo che sia che sia difficile anche da trovare, perché rimane comunque chiuso in delle nicchie. A me interessa molto, perché parla di qualcosa che non è nelle istituzioni tradizionali, però alle volte cioè penso un po' che c'è un filo conduttore tra Simona e lo spettacolo di questa sera, no? Cioè questo tipo anche di drammaturgia di cui parlavamo prima, questo modo di comunicare con il pubblico, di portare dei temi tabù, perché anche Simona fa questo, no? E e sfatarli con questa dimensione appunto più ironica, divertente. E quindi mi chiedo se anche tu, per la tua professione personale, per la tua passione per il teatro, cioè non penso che sia una scelta casuale, visto che anche tu hai voluto loro questa sera, no? Cioè l'abbiamo voluto insieme. Cioè, a me interessa tutto quello che ridefinisce un po' dei confini, no? Mm-hmm. Il problema è quando diventa anche quello una forma. E quindi a me, cioè per me il queer è qualcosa che ha dei confini labili e che quindi riesce a muovere, agendo controtempo, ad agire in questo senso. E a volte, appunto, quando diventa una continua parlarsi addosso e rimane all'interno di una bolla, non è più queer. Cioè, se il queer non è legato solamente a non ho un genere definito, ma genere in che senso? Cioè, è difficilissimo, perché è qualcosa che problematizza continuamente qualcosa. Quindi per me può essere queer anche qualcosa che non Simona, parla di anche Simona Semenic, sì, ma non solo. Poi qui sto aprendo troppo il concetto e diventa che non definisce più nulla, non lo so, però sì, ha anche una presenza molto forte. Quindi è difficile dire cosa ne pensi del teatro queer, perché poi può cambiare questo concetto, non so se... Cioè può essere qualcosa in un momento e qualcos'altro in un momento dopo. No, certo, ha senso. Non è l'acqua gym, abbiamo capito perché. No. Ma... Non so se... Poi io non voglio mai essere una di quelle, perché quando sono nel pubblico invece non faccio mai domande. Proprio, cioè, morirei piuttosto che far domande. Però anche aprire... Se magari... qualcuno vuole... Sì, o magari... Perché noi stiamo parlando di questa fruibilità, però magari loro ci dicono, ma guardate che... non si capisce niente. O non so... Sì. Lo ripeto per la registrazione, domanda è stata: cosa intendete per il teatro che si parla addosso? Quanto tempo abbiamo? Lo facciamo anche noi, adesso in questo momento. Esatto, lo stiamo facendo. Il teatro che si parla addosso. No, adesso facciamo una dimostrazione per voi. Vai, Eliana. Allora, no, il teatro che si parla addosso, fondamentalmente uno dei grandi problemi che c'è da... Riccardo, correggimi. No, che sei uno storico e critico. Però ormai possiamo dire da un po' di decenni. Ma da di più. Da di più, ok. Cioè, se ne lamentava Pasolini, cioè sempre è una cosa italiana. Se ne lamentava Pasolini è una cosa italiana, dice Riccardo. Quindi diciamo così. E poi anche Pasolini è diventato vittima di quegli stessi del teatro che si parlano addosso. Esatto. Nessuno di noi è salvo. Esatto. No, no, nel senso che è un problema appunto di decenni e decenni, che pian piano il teatro, da che era l'emblema della, veramente della riunione collettiva, cioè il teatro era il posto in cui la cittadinanza si ritrovava per attraversare un'esperienza insieme di grande importanza, man mano è diventato qualcosa in cui, per avere accesso sia alla comprensione, ma anche ancora prima della comprensione, perché io non penso che per forza io debba capire tutto quello che vedo, però in qualche modo devo entrarci in contatto, che sia a livello emotivo, a livello intuitivo, a livello di qualcosa deve toccarmi. Se invece diventa man mano un linguaggio sempre più lontano da me, che non ho, magari non ho gli strumenti o degli strumenti particolarmente sofisticati e particolarmente approfonditi per arrivarci, diventa impossibile. E come mai questa cosa? Perché se io faccio uno spettacolo che parla di teatro, lo capirà Riccardo che ci lavora in teatro, lo capirà Diego forse. Ha detto forse, eh? Forse, perché è più... però diventerà assolutamente, oltre che inaccessibile, anche profondamente inutile per chi non fa quel mestiere. E c'è, almeno per me, una proliferazione incredibile, Ma io stessa a un certo punto, cioè, sono caduta nella trappola del metateatro subito. Perché, ma perché è vero, ma perché più chiaramente vai a vedere spettacoli intellettualmente acclamati che smontano la rappresentazione, smontano il sistema teatrale, allora dici, ah wow, figata, voglio farlo anch'io. Però poi ti rendi conto che, per quanto intellettualmente eccitante, finisce a parlarsi addosso e quindi non entra in contatto con la realtà e i linguaggi e le persone fuori dal teatro. Prego, colleghi, perché vi sento caldi. Vai. No, io ti devo una cosa molto più semplice e banale. Anch'io. Questa, cioè, una cosa produttiva. Okay. E cioè che, diciamo, banalmente girano sempre gli stessi nomi, ci sono sempre dei classici fatti da registi, e diciamo che è un circuito che tende a non cercare altri pubblici, ma a tenersi stretta quella fetta di pubblico, apro e chiudo soprattutto le sciure abbonate, però quello è il dato di fatto, e quindi a tenere questa comunità in realtà più chiusa di quanto non sembri, no? E siccome sono romano, il motto che ho è volemose bene, cioè nel senso che fare uno spettacolo che magari porta avanti dei temi politici, socialisti, femministi, queste cose qua, ma quasi soltanto non per andare a fare la battaglia fuori dal teatro, ma affinché dentro al teatro tutti noi, borghesi e maschi, bianchi, etero e europei, professoresse di lettere, lettrici del PD, ci sentiamo con la coscienza pulita perché ce la siamo lavata dopo questo spettacolo. No, mi sembra una cosa che non funziona, insomma, perché appunto il teatro queer dovrebbe farci andare nelle strade, non farci fare l'occhiolino e dormire, no, nelle nostre coperte di seta, diciamo. Molto semplice era. Sì. Sì e basta. Sì, no, io sono... Sì, anche intendevo come lo intendeva Riccardo. Il fatto che appunto poi si rischia che a teatro ci vanno sempre i soliti e siamo io che guardo te, tu che guardi me, e ci parliamo tra di noi, però poi tutto quello che stiamo dicendo, che è molto importante, però non sta arrivando fuori dal teatro. E quindi di che cosa stiamo parlando? Di noi. Ma posso dire una cosa su questo? Cioè, no, non c'era. Stavano parlando. Madonna, affamatissima. No, brevementissimamente, però storia vera. Io sono stata criticata per... lo so, anche per te una cosa, no. Sono stata criticata, ad esempio, per Controtempo. Perché mi è stato criticato il fatto di scendere, uso le virgolette bruttissime, metaforiche, che non si vedono nel podcast, ma ho fatto con le dita le virgolette. Perché, come dire, sono scesa a un linguaggio pop. Se possiamo dire pop. Questa cosa non me l'avevi detta. Perché sai che io... Madonna, sì, sì. Santa. No, e quindi per dire che... Dopo voglio sapere chi. Ma certo, spilliamo tutto il tè del Anche mondo. Anche perché vorrei dire questa cosa adesso, senza entrare a gamba tesa. Eliana Rotella, quante volte è arrivata in finale al premio Carlo Annoni con un suo testo? Troppe. Almeno tre. Almeno tre. Quante ha vinto? Con te. Un caro saluto a tutti gli altri coautori di tutte le drammaturgie con cui Eliana Rotella è arrivata in finale. No, però è vero, cioè nel senso, è grave perché questa cosa viene da persone del mondo teatrale. Cioè, quindi se già le persone del mondo teatrale criticano questo scendere a patti con un linguaggio che invece... In questo caso è salvifico. Sì, ma poi sembra che abbiamo fatto la corrida di Corrado. Cioè, comunque, cioè, non mi sembra proprio. Citiamo invece... anche la Butler. No, anche però, Preciado. Però c'è una frase di Preciado. Attenzione. Però questo vi dà l'idea. Cioè, questo ci dà l'idea di quanto. Di quanto. E questo per me è preoccupante. Di quanto sia criticata la volontà di parlare fuori dalla bolla. C'è uno stigma per me, in una certa... Esattamente una critica passare un messaggio. Sarebbe bellissimo se fosse così, ma mi è stato proprio detto, non è che stai semplificando troppo? Quindi, cioè, per me è grave perché nel momento in cui, cioè, ti posizioni all'interno di una, anche di un ambiente, è molto difficile perché... cioè, è quasi come se stessi tradendo questa strana elite culturale, no? Come ti permetti di andare a parlare con persone che non hanno letto 720 saggi per riuscire a capire esattamente di cosa stai parlando quando parli di... E per me questo è preoccupante, soprattutto in questo momento storico, per quanto mi riguarda. Perché non è proprio il momento, secondo me almeno, non è proprio questo il momento di mangiarci la faccia a vicenda, per quanto mi riguarda. Sì, comunque c'è un atteggiamento poi che diventa di presunzione, cioè io sto sopra, allora, però non sto comunicando. Cioè se io mi metto qua, come faccio? Cioè sono, mettiamoci, cioè troviamo un linguaggio che parli, perché sennò allora che senso ha? Del teatro, ma anche delle arti visive, della fotografia, soprattutto perché siamo in un momento dove la cultura in generale sta diventando sempre più d'élite, perché siamo in un paese dove la cultura non vale niente. Quindi io aggiungo siamo, privatizzata anche. Quindi più stupidi siamo, più in verità... E più che mai adesso c'è bisogno... bene, perché ci vogliono stupidi, quindi la cultura in verità... sta diventando sempre più delitto, ecco. È una cosa che però credo ci sia sempre stata nel momento in cui c'è stato e si è verificato un cambiamento forte storico-culturale. Pensando all'arte, già solamente pensare a Turner, quello che ha portato anche nei canoni che all'epoca c'era nell'arte, l'impressionismo, come ha smosso la cultura artistica, come appunto anche lo stesso Van Gogh è stato sempre un reietto, è sempre stato considerato un reietto, non è mai stato capito nel momento in cui è morto e delle persone si sono aperte anche al suo movimento, al suo dolore, alla sua anima, cioè... Lì poi è stato compreso ed è diventato il padre di tutta un'arte poi che è stata portata avanti, ha cambiato l'Europa e il Novecento. Però comunque il problema è quando non c'è accoglienza sia da chi riceve che soprattutto da chi crea. Perché nel momento in cui si cerca di accogliere... questo poi è il mio pensiero personale, le cose cambiano, però bisogna essere sia recettivi ma anche disposti ad aprire le porte. Abbiamo spato. Certo, no. Che ho già una breve risposta molto alla tua domanda. Tu pure. No, io sono ancora qui che penso, okay, chissà cosa... chi gli ha detto questa cosa... Deve essere stata la battuta sul cucciolone, comunque, secondo me. Adesso, no. se penso a tutto il nostro testo, secondo me sì, può essere stata quella che hanno detto Eliana Rotella è diventata pop. No, io... c'è un bellissimo spettacolo di stand-up comedy, lo trovi su Netflix, che si chiama Nanette, di Anne Gadsby. E lei fa questa cosa molto interessante di intreccio fra il mondo dell'arte proprio, visiva, e la stand-up, e a un certo punto fa una cosa per me incredibile a livello di stand-up, però non faccio spoiler. A un certo punto parla di Van Gogh, no, parla di Van Gogh anche rispetto a tutta una tematica di salute mentale, eccetera, però dice nessuno può nascere prima del suo tempo perché è biologicamente impossibile nascere prima del suo tempo. Ed è molto interessante perché dice... Noi abbiamo Van Gogh per suo fratello, perché senza il fratello di Van Gogh probabilmente non ci sarebbe stato nessuno, che si sarebbe veramente preso la briga di andare a capire cosa dipingeva poi effettivamente. Ed è interessante che sia nato tutto da una relazione umana, in qualche modo. Quindi sul fatto dell'accoglienza o no, io penso che sia anche una questione di come da esseri umani riusciamo veramente ad andare un attimo oltre la forma e capire davvero di cosa stiamo parlando. Quindi per quanto riguarda il mondo dell'arte contemporanea, io sono molto d'accordo che è un problema esteso, è un problema, ho amiche e amici che, e amico, che lavorano, non so perché ti ho guardato su questa cosa come se ti stessi, come se tu non avessi mangiato, vabbè, che lavorano sia nelle arti visive che nel cinema, eccetera. È qualcosa di abbastanza diffuso, anche perché purtroppo la fascia, cioè o improvvisamente spacchi tutto e arrivi in quell'1% di elite culturale in cui tra l'altro girano i soldi, possiamo dirlo, perché ci sono tanti soldi che girano tra pochissime persone, oppure la forbice è enorme, cioè non c'è più una via di mezzo, non c'è più un mondo intermedio in cui si può navigare. Questo è un problema economico e culturale, per cui alla fine a volte anche per entrare in quell'elite lì sei disposto, disposta ad abbandonare tutta una serie anche di battaglie tue personali, perché dici io vorrei guadagnare e vivere di questo mestiere, e forse se devo abbracciare un linguaggio più, non io dico, ma una persona in questo caso, se devo abbracciare un linguaggio più criptico ed elitario, lo farò. No, io so qua a parlare del cucciolone. Indica a me che sono, evidentemente. No, tu sei il cucciolone, eccoci qua, proprio io. Ma è che è una dinamica da cui non puoi prescindere. Cioè, io un po' penso che la sofferenza del mondo culturale, artistico, in tutti i sensi, nel momento in cui ha bisogno di fare soldi, perché poi l'artista deve portarsi a casa la pagnotta, di fatto, non può prescindere da quel sistema che funziona solo per il guadagno. E quindi come tu cambi il gusto del pubblico, cioè di fatto chi lavora nel mondo culturale cerca di formarlo anche per il fatto che banalmente, non so, devo vendere un'opera d'arte, allora preferisco vendere l'artista che so che è quotato invece di rischiarmela su quello che non è ancora conosciuto. E se sono una dimensione ancora piccola, quindi non sono, so, il museo, la galleria famosa o il teatro Franco Parenti, non me la rischio sul, cioè, Franco Parenti, scusa, deformazione professionale. Ha detto la F word. Adesso, la F word è Franco Però Parenti. Il tuo esempio, anche della critica che tu hai ricevuto, mi sembra che come avvalli questa tesi, no? Cioè il fatto è che interesse ho io di comunicare a un pubblico che di fatto magari anche a livello economico mi porta poco? No, ma quello che dico è, il problema è questo, cioè la difficoltà della lotta più piccola di appunto credere nel fare anche delle cose come queste sta nel fatto che poi purtroppo devi competere in un mondo che purtroppo ragiona così, e quindi anche l'artista, qualsiasi esso essa sia, cioè qualsiasi forma d'arte faccia, soffre tantissimo, o come diceva anche lei, magari a un certo punto arriva a un momento della vita in cui dice come faccio effettivamente ad avere quella voce e a mantenere i miei ideali. Quindi è un sistema molto, molto difficile, molto brutto, secondo che me vivo poi quotidianamente, ed è un dato di fatto, cioè secondo me certo, cioè io sono d'accordo, però ti dico quanti sono poi quelli che effettivamente lo fanno. Cioè se io penso anche a Milano, l'unico teatro che penso che, diciamo, tra i teatri un po' più strutturati, diciamo così si può dire, è forse il Teatro Elfo. Cioè se devo pensare al Piccolo Teatro o appunto al Franco Parenti, un po' dico che rassegna teatrale mi propongono. Cioè io non lo so, una sofferenza. Eliana, difendi la tua busta paga del piccolo subito, no, subito. No, vabbè, scherzo. Signori del piccolo che siete all'ascolto, Claudio, un caldo abbraccio, cioè, direttore del piccolo teatro. Eliana Rotella continua a volerti bene, Claudio, non ti preoccupare. Anche io, che ho fatto gli spettacoli del tuo teatro, ma tu non lo sai probabilmente, Claudio. Noi ti vogliamo bene, continua a chiamarci. Sì, io sono molto d'accordo. Nel mondo dello spettacolo è un po' diverso, cioè, perché c'è questa cosa che il mondo dello spettacolo è fatto insieme dal teatro e dal cinema e dalla televisione. E quindi ci sono delle cose che il mondo del teatro disprezza come commerciali, ma dove girano molti più soldi. E quindi è lì che è un po', c'è una sottile differenza con il mondo dell'arte, in cui dell'arte visiva, in cui dicevamo invece che si può scegliere di avere, cioè che ti porta su anche un linguaggio più criptico. Invece secondo me uno dei grandi problemi del mondo del teatro è che ci sono pochi soldi e che poche persone lo prendono sul serio, e quindi il mondo del teatro è costretto a prendersi estremamente sul serio da solo, e quindi è questo, cioè, per cui essere pop è un problema per questo, perché in realtà più che essere pop è non prendersi sul serio il vero problema. E nel mondo del teatro, che è un mondo che in Italia non ascolta nessuno, invece al suo interno è pieno di persone con piccoli poteri che vivono arroccate in questi loro piccoli poteri. Basta. C'è quasi amen. No, l'unica, cioè, ripensando all'arte, ma adesso anche un po' forse cioè il discorso anche che poi entri dentro un'elitarietà in cui devi essere riconosciuto, e anche per essere preso sul serio all'interno di quel mondo lì finisci per diventare quella cosa lì, perché hai anche tu bisogno di identificarti all'interno di quel mondo. Quindi poi diventa un sì. Cane che si morde, esatto, la coda. Cioè non possiamo parlare lì, non possiamo parlare qui. Ma infatti io ormai il mio animale guida è Balto. Cioè non è cane, non è lupo, so solo quello che non è. Quindi non è stato con il mio testo che sei abbassata a questo linguaggio pop. Eccoti qua, che citi i cartoni animati. Che schifo. Tutto registrato. No, quindi aspetta che magari non mi metto la cosa proprio che è molto grancia. No, sono contenta che si sia aperto effettivamente un circolare di punti di contatto, banalmente. Questo per me è importante, perché significa che allora quello che stiamo dicendo forse risuona veramente in più persone. Quindi grazie, che soprattutto che avete parlato, perché non avete fatto come me ai talk, insomma, in cui faccio sempre finta di prendere una caramella, di girarmi, mi scappo. No, tu parli ai talk. Io sì, sono proprio litigo anche. Fantastico. Beh, comunque fra questo, cioè, non voleva essere anche un canto di lamentele. Ci sono anche degli spazi bellissimi di altri attivi, no. Fra cui uno di questi domenica presenta questo testo, appunto. Vabbè. Esatto, il Teatro dei Filodrammatici, lo ricordo, alle 19. Sentirete dietro, se siete arrivati in ritardo e non avete visto. Sì, soprattutto c'è tutto un altro pezzo con grandi colpi di scena. Grazie. Io lo vendo a tutte, così. Grazie a tutti. Grazie mille davvero. Grazie mille.